Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. 22:15 minuti primi, rieccoci nuovamente in studio, questa volta con un live, Maurizio. Sì, stasera abbiamo Alex Snipers Experience. Quanti anni che non ci vediamo, Alex? Tre anni. Sono tre anni che non ci vediamo. Ciao Alex. Ciao. E questa sera Alex, che è il 1° maggio, ma è venuto anche lui a suonare, è venuto a presentare il nuovo disco che ha fatto, Family to Someone Living in Action, un disco assolutamente live. Ma ne parleremo più tardi, ok? Volevo fare un piccolo ringraziamento che ci è arrivato alla fine, forse l'ho visto io troppo in ritardo, a Gino l'ascoltatore. Lo salutiamo, validissimo nostro collaboratore ormai. Esattamente, che ha ascoltato prima la musica di Daniele Scarsella, certo. E ha voluto fare i suoi complimenti. Grazie di cuore, Gino. Bene, cominciamo questa cavalcata, Alex. Dobbiamo dire, innanzitutto, in soldoni, dove è nato Alex Snipers Experience? Quanti anni fa, Alex? Ormai sono passati. Dunque, perché all'inizio. All'inizio ci chiamavamo The Great Big No. Ed eravamo proprio un gruppo. Eravate un gruppo. Come la canzone dei Lemonheads. Certo, tra l'altro. Poi dopo, tra varie vicissitudini e altri progetti, tra i boy band dai Pink Floyd, tra i boy band dai Rolling Stones, si è arrivati col tempo e varie cose, cover, band varie, a fare appunto la Snipers Experience, che ne esordisce nel 2007. Con questo? Con Slackness. Con Slackness. Questo album bianco che con qui la da chitarra, esattamente. Sì. Poi è stato recensito ottimamente questo che avevi fatto a Torino. Sì, l'anno dopo, era il 2008. È praticamente esploso nel senso positivo del termine, la critica esplosa. T'ha recensito benissimo, un sacco di giornalisti ti hanno scritto bene su questo disco. C'è ancora. Come mai, secondo te, Alex? C'è in giro molta follia. Sì, interessante questo. La modesta. Obiettivamente è un disco che ha riscosso molto successo nella critica. Mucchio Selvaggio, Rockerilla, tutti i giornali di un certo tipo t'hanno recensito in modo positivo. Ma mi piace, vuol dire che ci sono ancora degli appassionati. Cioè, a me piace il rock, ovviamente chi piace il rock piace probabilmente piace questa versione acustica. Acustica dal vivo, quello è importante, è una cosa che non si ha, che non si fa sentire spesso e volentieri in live. I live fatti da un musicista italiano è un po' difficile, però tu ami fare i live, tu ami suonare dappertutto, sei il basker psichedelico, possiamo dire così. Sì. Suoni dappertutto, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Sì, è il tuo credo, praticamente. Ma praticamente sì, nel senso. Praticamente sono sempre in azione, per questo è familiare a qualcuno, nel senso, c'è qualcuno che fa queste cose, suona tutti i giorni ovunque, è una cosa che a me viene spontanea e poi mi piace. E anche il discorso del Vietnam che c'è nella copertina. Adesso ne parliamo. Innanzitutto, come possiamo identificare questo nuovo disco, questo nuovo progetto? Che cos'è? Un assieme di live fatti dove? In giro per l'Italia, c'è Milano sicuramente, a diverse parti, poi provincia di Bergamo, ma anche Pesaro, anche Padova. Ci sono delle registrazioni, però non ti so dire esattamente. Beh, infatti, una serie di registrazioni, esatto, dal vivo in giro per l'Italia, prodotti da chi? Da Alfio Costa. Chi è Alfio Costa? È guru del progressive. Ecco, dobbiamo studiare questo. Il progressive italiano è il tastierista vintage. Vintage, quindi strumenti di una volta. Sì, Mellotron, Louis Moog, sintetizzatori del passato. Del passato. Piano Rhodes, Fender, che ha praticamente masterizzato e tra virgolette si può dire prodotto questo disco, no? Infatti gli ha dato un taglio quasi da concept, esattamente, all'idea che le canzoni arrivino, un concept diciamo un po' particolare, beatlesiano forse. Sì, molto arizoniano possiamo dire, tu ami praticamente il Beatles versante Harrison. Sì. Sì, ancora. Anche perché è stato il primo gruppo che ho ascoltato, quindi mi sono rimasti. Poi col modo di fare melodia, nel senso, tra l'altro ho letto ultimamente dei loro libri, hanno delle cose che poi col tempo capisci, no? Nel senso. Erano molto avanti, è sempre stati avanti, nonostante. Ma, sai, tutto. Dimmi. Leggevo un libro, proprio una cosa che loro puntavano moltissimo, era il cosiddetto mid-late. Cioè? Sarebbe l'ottava di mezzo. Ah, tu nel jazz, nella musica jazz, cioè Bill Bruford dei King Crimson, sì, ha sempre detto il jazz alla fine non è nient'altro per lui che il rock, un jazz coi ritmi accentuati, che è quello che dice anche Keith Richards, sì, degli Stones. E lo schema di una canzone è A-A-B-A, che è lo stesso schema del jazz, cioè strofa-ritornello, ottava di mezzo, che sarebbe quel ponte particolare che non è un ponte, perché non è uguale al ponte, non è un ritornello, non è una strofa, è una variante. Ho capito. Nei Beatles, non so, tu puoi prendere, non so, A Hard Day's Night. Sì. When I'm gone, sì, na na na na. Cioè, quello lì è un'ottava di mezzo, perché è una variante che non c'entra niente con la strofa, con l'introduzione e con l'obverso. Ho capito. E loro leggevo in questo libro, questo che libro, ho letto, che viscera le loro canzone per canzone, proprio c'era John Lennon, diceva il middle eight è mio, cioè più che strofa e verso, che sì, hanno la loro importanza, ma è lineare lì. Il middle eight è una trovata, è quel refrain che ti resta impresso, che praticamente rende vincente il pezzo, chiaramente. Sì, perché è la trovata che esce fuori, cioè lo rilancia in una maniera tale che tu resti. Perfetto. Ok, sentiamo allora il primo pezzo che abbiamo scelto. Poi, cari ascoltatori, vi dico una particolarità, Gil lo sa già, che Alex stasera non presenterà i pezzi del disco, perché tanto li conosce a memoria, è stanco di presentarli. Presenterà le cover, tutte le cover possibili. Lui è un Elvis Costello italiano, praticamente qui seduto. Io tiro la freccetta e premo il numero 4 e lui tira fuori dal librone che ha la cover numero 4. Non è proprio così, ma quasi. Un sistema originale. Elvis Costello è stato Elvis Costello uno dei primi a dire al pubblico: cari partecipanti a questo concerto, scegliete pure i pezzi che volete. Io stasera faccio la scelta dei pezzi che voglio e Alex ce li suona. Ok, sentiamo il primo pezzo che abbiamo scelto da disco, Stay With Me. Okay, took my baby away. Okay, 1, 2, 3, 4. Feel so alive. radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. 22 e 26 minuti primi qui a Blu Radio Veneto di questo mercoledì 1 maggio 2013 in diretta live qui ai nostri studi con Alex Snipper. Allora, caro Alex, tanto facciamo qualche spiegazione su questo pezzo, Stay With Me. Io ho scritto nella breve recensione che ho fatto, molto Lemonheads dipendenti, in senso positivo del termine. Secondo me io l'ho sentito così. Tu non sei d'accordo, lo so, ti vedo, però mi dici se sei d'accordo. Sì, sì, no, io i Lemonheads, Buffalo Tom, Dinosaur Junior, i Pixies, Boston, anche Aerosmith, Boston domina. Domina, sai, Cars, tutti gruppi che rock. Ma particolarmente in questo pezzo mi ricordava i Van Dando, quindi i Lemonheads. Sì. A mio parere, questo country è abbastanza countryggiante il pezzo, anche se è un countryggiante per modo di dire, però è, la matrice è quella. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ma infatti alla fine i Lemonheads era country rock. Sì, country viscerale, poi giocavano, mischiavano, costruivano. Li ho visti in concerto a Milano. Quanto tempo fa, Alex? Ma 4 anni fa aveva la maglietta di Gram Parson. Ah, vedi caso, vedi caso. Vedi caso. Già detto, visto che Gram Parson è stato il primo... Il disco più country dei Birds era quello di Gram Parson, che ha spopolato e ha sconvolto determinati dettami. Bene, adesso siamo pronti a fare una cosa che facciamo non sempre, solitamente, facciamo tutte cover. Ti ho concesso per stasera di aprire con quella cover che vuoi te. Che cover vuoi, con cui vuoi aprire? Ma io aprirei con un gruppo sempre di Boston, che tra l'altro sono molto amici con i Dinosaur Junior e i Lemonheads. Sto parlando del gruppo di Bill Janovitz, cioè? Buffalo Tom. Quante volte li hai visti? Buffalo Tom non li ho mai visti. Ah, non li hai ancora visti? Ho visto i Dinosaur Junior, i Lemonheads, i Pixies, ma i Buffalo Tom no. Perché poi nel 98, quando hanno fatto uscire Smith & Sons, si erano sciolti. Peccato, è vero. E sì, avevano fatto la tournée del disco prima, Sleepy Eyed, ai Magazzini Generali, ma non c'ero andato. Non c'eri andato. E il mio disco preferito d'alto è Let Me Come Over, che l'avevo preso qualche anno prima, che è del 92. Sì, mi pare sì. Che per me resta il loro disco migliore. Cioè, anche loro è genere Lemonheads. Sì, nel senso, certamente. È un po' più arrabbiati loro, secondo sì, me. Sì, è quella cosa lì di tenere comunque sempre le chitarre distorte. Ma perché c'era... forse rispetto ai Lemonheads si sente più l'influenza dei Replacements, sì, e di Bob Mould. Esatto. Cioè, alla fine è quella famiglia lì di musica... Beh, i Replacements è un altro gruppo che tu hai omaggiato anche in questo disco. Io li adoro. Paul Westerberg è una bestia. Musicalmente è validissimo. Allora cominciamo con questo pezzo dei Buffalo Tom versione Alex Snipers, che tra l'altro si dice sia stato composto a Roma in un dei concerti romani della band. Bene, è in linea col primo maggio. Titolo? Si intitola Porch Light. Ok, dal disco Let Me Come Over. Even the need becomes too strong or long and draw for me to take, like a cigarette burned to the flashy turbines on my heart. The faded afternoon flows breezily into my memory, cause I saw light appear and lay here standing naked on my own. Your voice is small on my voicemail system, a million miles away. But if I turn it off, I do not hear the little things you say. The world must change like a king, ring up old acquaintances. It's like the man says, I am here on business. It's over anyway. On any other day, they say the light has got no equal. On any other day, the date is relevant, but she was drunk in the heat of the June night. The faces in the windows shining out into the yellow light. The flailing arms and scrambling eggs I flew on my two shambling legs. I gotta go, I said, but Bolu's dead. On any other day, on any other day, they say the letter's got no equal. on any other day. On any other day, they say the letter's got no equal. On any other day. Blaze away, the kitchen porch was all bare remain, and hung out here alone, better than piss, until this very day. Behold, the time ran back in faster time, and I was ravaged to the bone. Your voice got smaller till I realized it was gone. On any other day, they say the letters got no equal. On any other day. Any other day, I swear the letters got no info. On any other day, I realize, I realize. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Caro G, hai visto che energia Alex? Alex, chitarra acustica e libroni, perché un sacco di libroni di code. Perché vede. Non se li ricorda, giustamente non puoi ricordarti tutti i testi a memoria, quindi sfogli il librone. No, vabbè, guarda Maurizio, ti dico una cosa, sto ricercando anche, perché abbiamo questa possibilità di vedere un po' anche in internet varie cose, degli artisti che passano da noi, e do un'occhiatina al profilo di Alex e vedo che ha ben 18.000 visualizzazioni sul suo... Non sono poche. Sì, è una cosa buona. Modestissimo. Comunque questo è un merito anche alla tua musica, Alex, sicuramente. Beh sì, sono contento. Nel senso... Beh, suoni dappertutto, ti fai sentire, ti fai vedere, chiaramente. Tu hai detto una cosa bella, la dichiarazione, cito testualmente la tua dichiarazione. Suonare live è sicuramente familiare, comune ad alcune persone, e nello stesso tempo si tratta di vivere in continuo spostamento, come tu hai fatto stasera, dopo concerto con tutte le sorprese positive e negative del caso. Si tratta di misurarsi, limitare i propri limiti. Questo CD è anche un invito a uscire, a suonare il più possibile, rivolto a quelli che vorrebbero farlo sul serio, intendo. Quindi bisogna suonare, vivere, suonando, si vive suonando, c'è poco da fare. Cosa dici, Alex? Ovvio, cioè nel senso, per questo fammi living in action, cioè nel senso sei sempre in giro a suonare, quindi vivi costantemente in azione, mentre un po' io avevo letto da qualche parte che in Vietnam le truppe americane... A proposito, citiamo un momento la copertina, esatto, fatta da chi? Da Davide Guidoni, di Roma. Di Roma, che ha fatto praticamente... Sì, ha ripreso... Ritrae una scena del Vietnam, praticamente. Ma sono abbastanza ferrato sull'argomento e, come si dice... Avevo letto praticamente che le truppe americane, mentre in America, quando l'America combatté per la Seconda Guerra Mondiale, erano impegnate, insomma, mensilmente, in Vietnam praticamente erano sempre in azione tutti i giorni. E quindi per questo io era un invito a uscire fuori a suonare. Ovviamente non è la stessa cosa, certo, in Vietnam a suonare. Però insomma sì, io sono sempre fuori a suonare, nel senso, e nei locali, e anche in qualsiasi posto, nei festival, sì, nei festival basker e in strada. Sono iscritto anche alla FNASC, la Federazione Nazionale Artisti di Strada. Quindi c'è un basker da tutti i sensi. Sì, che provo anche nei locali. Anche nei locali. Sicuramente avrai suonato a Ferrara. Sì, sì, certo. Bellissimo. Io sono un appassionato del basker di Ferrara. Magari ti avrò anche visto passando di là, chissà mai. Sì, sicuramente. Vai ogni anno? No, mi piace anche spostarmi, nel senso che di solito non ripeto mai le solite città, tranne che non sia Roma, Milano, che allora sono situazioni. Per esempio adesso Milano ha un sistema telematico di prenotazione della postazione. Cioè via internet uno prenota il posto e poi gli viene rilasciato il permesso da stampare col computer. E Roma è differente, bisogna fare delle richieste speciali, così come a Firenze. E, però voglio dire, son posti dove sono anche ritornato a suonare. Altri posti più piccoli, perché sono stato anche in cittadine come Correggio, come si chiama quella che c'è qua dove c'è il lago di Garda, per dire, Riva del Garda e Trento, tutta l'Italia del nord, del centro nord, l'ho fatta prima nei locali e poi dentro, fuori nelle piazze, e poi nelle strade. Bene. E ho potuto sperimentare un sacco di attrezzatura, gli amplificatori. Posso fare i nomi? Stasera puoi fare i nomi. Stasera porti solamente una chitarra acustica? Sì, non è fettata di solito. No, dal vivo. Quando hai registrato questo disco non era tutto acustico. Lì era riverberato tutto. È riverberato tutto, bello questo. Persino le robe che prendevamo, le birre. Riverberate che No, era tutto aumentato con un guadagno pazzesco. Aveva un'enfasi che neanche gli U2 a San Siro. Non come intendo dire, come riverberi di lei che c'era dentro a Torino, anche Alessandria, quello che c'è, il DVD, nel senso è un trionfo del fettista. Perché tu hai fatto un DVD? Sì, sempre in Piemonte. E poi sono andato in quei posti, sono andato in strada, accanto ai locali dove ero andato a suonare. Cioè, suonavo nel locale prima, però dove uscivi? Ma poi ho visto che anche Bruce Springsteen, gente come Bon Jovi, ha fatto queste cose per suonare in strada. Cioè, nel senso. Volevo chiederti una cosa, Alex, cosa lascia come esperienza suonare in strada? È che a un certo punto arrivi a un punto che effettivamente ti rendi conto che quanti chilometri hai fatto, ti rendi conto che hai fatto un sacco di viaggi e capisci quando quelle cose che non pensavi, che non riuscivi a capire quando leggevi delle interviste, magari avevi 14 anni, leggevi di questi cantanti che sono stanchi, no? Che a volte, non so, hanno visto talmente tante persone che sentono una settimana, non vedo nessuno, stacco tutto. Stacca la spina. Ma non è una cosa che fai, che non ti accorgi neanche di farla, perché a furia di viaggiare, vedere gente, situazioni sempre nuove, all'inizio è bellissimo, ma quando tu arrivi, perché diventa una droga, una dipendenza. Sì, bisogno. Il palco è una dipendenza, sia che sia. A un certo punto, se non ti regoli, cosa fai? L'unico sistema è smettere, chiudere tutto, e per una settimana non vedi nessuno. E ti accorgi dei chilometri che hai fatto, dei volti che hai visto nella tua mente, tornano, cioè nel senso delle modi di fare delle persone, degli italiani, inglesi, francesi, americani, stranieri. Mi è capitato di incontrare un po' di tutto. Sono nato anche a Venezia proprio il 16 di luglio, la festa del Redentore. C'erano giapponesi, erano incuriositi dalle attrezzature che avevamo. Avevamo quegli amplificatori portatili, abbiamo usato l'Artec, che era un amplificatore da 20 watt, anche abbastanza potente. Poi il mio preferito è il Vox M3, che ha possibilità di effettistica digitale, sia per chitarra che per voce. E poi è bello anche il Line 6. Che stai citando tutti? Sì, ma ne ho presi, ne ho usati tanti. Sono riproduzioni per la strada di Line 6, anche un amplificatore da heavy metal. Infatti ha 4 livelli il Line 6 da strada di utilizzo. C'è Clean, che fa il pulito, fino a Insane. Cioè praticamente sono un amplificatore da heavy metal in versione ridotta. Sì, però lo puoi usare da pulito, per la chitarra va benissimo. Se lo usi in Insane, ti fa un suono che in confronto i Death o i Cannibal Corpse sono... Non sono niente praticamente. Sì, no, è una cosa così. E per cui ho usato un po' di tutto, anche... anche le chitarre, mi sono reso conto, per esempio ho fatto un live in un locale a dicembre che l'ho caricato su YouTube, che c'è in copertina un bombardiere Lancaster, per rimanere in tema, un po' come facevano gli U1. Esatto. Ed è in un locale quello, come questo live che stavamo sentendo. Invece l'altro live che ho registrato e che ho pubblicato questa settimana su YouTube è registrato a Milano e ho utilizzato l'H2S4, che è un sistema digitale stereo ma anche quadrifonico. L'ho registrato e poi col computer ho messo le tracce. Per me era più di quasi due ore di concerto. Però, ma lo volevo provare per vedere come l'effetto. Ti devo dire che è stato buono. Maurizio, sì, adesso vogliamo fare una pausa musicale? No, facciamo sentire un altro pezzo live. Sì, perfetto. Che adesso dal tuo librone cosa scegli? Ma io a questo punto direi che parlando, dicevamo, andare in strada è stato importante e questi anni sono stati importanti. Sono stati importanti per me grazie anche agli A Number 2 di Marco Sanchioni che avete avuto ospite. Sì. Ricordo benissimo, parlando di lui, le loro canzoni. Ricordo averli visti in concerto in provincia di Fano, di Pesaro Fano, no, a Montemaggiore, dove è nata mia nonna, che poi e praticamente ricordo il loro stile, era tra i Dinosaur Junior, insomma, gli Asker 2 e i Rem, alla certo. fine i Lemonheads avevano quei suoni così. E questo è These Important Years, dal doppio War House Songs and Stories. Ah. È un disco dell'87, forse il culmine degli Asker 2, che poi dopo... Ok. All right. Well, you get up every morning and you see it's still the same. And all the floors and all the walls and all the rest remains. Nothing changes fast enough to hearing where it is. It makes you want to give it up and drift into a haze. Revelation seems to be another way to make the days go faster anyways. We're all exchanging pleasantries, no matter how we feel. And no one knows the difference, cause it all seems so unreal. You better grab a hold of something simple but it's true. If you don't smell the roses now, we might end up on you. Expectations only mean you really think you know what's coming next and you don't. Hear birds swimming out of grabs from friends you might have had. These are your important years, you better make that last. Falling in and out of love just like. These are your important years, your life. Oh, oh, oh. Once you've seen the light, you finally realize it minds up alright. It minds up alright. Here, books with autographs from friends you might have had. These are your important years, you better make that last. Falling in and out of love just like. These are your important years, your life. Oh. These are your important, here's your life. These are your important, here's your life. These are your important, here's your life. These are your important, here's your life. Important, here's your na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Radio SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:45, più di un'ora ancora in compagnia di Alex Snipper. Alex, io ti devo mandare un messaggio di Marco Sanchioni che dice: un saluto ad Alex, a tutti voi. Ciao Marco. Grande Marco. Vedi, ti ha sentito praticamente. Ho sentito gli Asker 2. Gli Asker 2, hai sentito gli Asker 2. Alex ha citato uno degli album degli Asker 2, forse il disco più importante, ma è più importante per tanti versi, non solamente degli Asker 2, più importante per certe strade da percorrere che hanno molta gente ha poi percorso. Cosa dici, Marco? Alex, Marco è quello che ha messaggiato. Oh yeah, well, they ask you. No, ti stavo rispondendo imitando Bob Mould. Guarda, ho visto anche le sue interviste quando parla. Gli avevano chiesto appunto se per lui erano state più importanti il punk del 77 inglese, siccome era andato, era nell'85, e gli ha risposto: I think we are most influenced by the Birds. Si mangia tutto. Ha detto praticamente che era stato più influenzato più dai Birds, dai Beatles. E per cui penso che War House Songs and Stories sia un po' forse il loro, no, White Album, no, perché no, era Zen quasi. Arcade era già stato, sì, molti... però si può avvicinare, dai. È perché più melodico, non sì, so, forse però, più... già era un doppio album, quindi già si ma può avvicinare. Zen Arcade? Sì, anche quello, sì, però secondo me si può più avvicinare al White Album loro, dai. Forse sempre. Zen Arcade è un revolver doppio. Ecco, va bene. Sempre i Beatles che viaggiano. Loro facevano la cover di Ticket to Ride, Beatles e Birds. Certo. A proposito, un momento. Visto che hai citato i Birds, dopo mettiamo sul pezzo dal disco, però adesso nel tuo librone tiri fuori quel pezzo che tu non volevi perché hai detto una cosetta, ma torn di Pete Seeger non è una cosetta, adesso la tiri fuori e la fai sentire. Perché i Birds hanno iniziato tutto, con i Birds è cominciato tutto su certe cose in America, perché Alex è assolutamente americano, meno inglese, molto americano, anche se i Beatles sono inglesi, come tutti sanno. Ma i Birds sono stati importanti, e che sai cos'è, che questo pezzo è un secolo che non lo suono. Se tu sei bravo, hai un librone, quindi sicuramente ce la fai a suonare. Ma il librone perché non mi ricordo i miei testi, figuriamoci quelli degli altri. Maurizio detta le canzoni in diretta. Sì, no, vedi, qui in realtà il primo maggio per me non è mai iniziato, io sto in una fabbrica, c'è il direttore che mi dice... No, ci siamo messi d'accordo con Alex, lui fare quello che vuole, ma i Birds sono categoricamente Birds. Allora dopo voglio fare una cover degli A Number 2, dato che ha scritto Marco, vorrei fare Standing. Ma cioè, la fai ben voliti, adesso okay. Mi fai torn. Va bene. Ok, vai. To everything, churn. There is a season, churn, and the time for every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, churn. There is a season, churn. And the time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn. A time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, churn. There is a season, churn. And the time for every purpose under heaven. A time of war, a time of peace, a time of love, a time of fate. A time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything, churn. There is a season, churn. And the time for every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to run, a time to sow. A time to love, a time to hate, a time to peace is where it's not too late. Radio Veneto. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ringraziamo anche Maurizio, il nostro direttore artistico. Certamente, che cura tutti i live, il nostro guru. Grazie Alberto. Grazie Alberto, Alberto Prisco che cura tutti i live. Alex, visto che ci sei riuscito, lo sapevo io che ci riuscivi, c'è poco da fare. Sì, è come se uno all'improvviso gli chiede, mi reciti, mi dica il quinto canto dell'inferno. Lo so, ma sai, e io risponderei una storia di corna vissute. Devi sapere, devi tener conto una cosa, Alex, quando vieni qua, quando un musicista viene qua, non sa mai cosa va incontro, perché io faccio, cerco sempre di cambiare la scaletta, perché è bello, il live è bello così, se è tutto preciso, non è più live, non è più live. Adesso ritorniamo un momento al disco. Sì. Il disco è chiaramente migliore del disco che è stato pubblicato tempo fa a Torino, perché chiaramente ha una produzione stavolta, di un certo peso, come hai citato prima. Come mai hai avuto questo incontro col produttore? Com'è nato? Ma perché facevamo i pezzi dei Pink Floyd, quindi facendo i pezzi dei Pink Floyd... Tu hai fatto un disco sui pezzi? Sì, When the Snipers Grow Free, esatto. Aveva le cover dei Pink Floyd. Sì, c'era. Barrettiano, molto barrettiano. Sì. Cosa dici? Sì, sì, no. Perché tu sei barrettiano in ogni caso. Può darsi. Cioè, nel senso, non lo so. Beh, insomma, va bene. Ami particolarmente la fase floydiana con Barrett. Sì, sì. Possiamo dire questo. È quella più creativa. Perché è difficile, sai, con i musicisti, bisogna stare attenti. No, nel senso. Sì, no, perché Barrett c'è, cioè, il doppio. Vorrei che capisce uno. Ami la fase te barrettiana. Ma perché è il dove finisce il personaggio? No, io parlo solo di musica. Parlo solo di musica, assolutamente. Non parliamo di altro. Parlo solo di musica. No, riparliamo il discorso del produttore. Allora, l'hai conosciuto là con sì, con il disco di perché lui era uno che innanzitutto bazzica molto il mondo del progolo, come lo chiamo del io, progolo, il succo, sì. Il succo di progolo, esatto. E quindi, essendo di quella curva, lui seguiva molto quel tipo di musica, voglio dire, e perciò, essendo cover dei Pink Floyd, gli era piaciuto molto il disco e aveva espresso interesse a lavorare con me in questo senso. Ma la scelta dei pezzi live da registrare l'avete fatta insieme? Sì, perché avevamo più di 3 ore di registrazione. Sarebbe stato, io volevo fare un doppio in realtà. Lui ha detto no, poi mi hanno detto ma tu vuoi vivere ancora, vuoi che ti vengano a cercare a bastonarti? Chi lo scusa? Che pensa tuo padre, non ci pensi? Ho detto sì, è vero. Allora no, è che un doppio era francamente un'esagerazione, era una cosa sì. Da insomma, neanche, non so, i dischi, i Cream, voglio dire, un Magamma per rimanere nell'ambito sì, Pink Floyd. Esattamente. Era un po' troppo. Un po' troppo, esattamente. Beh, economicamente hai spostato te i soldi per fare il disco, praticamente. Sì, no? Sì, ma come dire, è una cosa, sì, è certo, è una mia produzione. Certo, autoproduzione al 100%. Ma è più o meno, cioè nel senso, i miei live sono così, come mi sentite ora, far certo. Cover è così, nel senso, catturo l'emozione, è un po' come... Hai detto una cosa giusta, catturi l'emozione. Vado per tentativi, a volte ci piglio, a volte... Ma di solito ci pigli sempre. Sì, mi aiuto con un po' di mestiere. Ecco, ti aiuti con un po' di mestiere. Allora, a proposito di mestiere, adesso è tutta una canzone, dopo tutto. È tutta una canzone, come ha detto uno famoso. Sì, Nicola il Giovane. Esatto. Allora, adesso citiamo, facciamo sentire la traccia numero 3. Questa è molto floydiana, Battersea, assolutamente floydiana. Che il titolo è... Già il titolo dice tutto, però anche come andamento, come idea. Adesso la sentiamo e poi ne parliamo un secondo. case of emergency. Between you and me, I can't hear you no more. Sense the sounds and the sunset and the heart is falling down, falling down to the ground. This is the last chance for the planet before the end. You keep talking, but I can hear you, I can hear you. You keep wasting my lonely mother, and the hair feels falling down, falling down to the ground. This is the last chance for the planet before the end. Falling down, falling down to the ground. This is the last chance for the planet before the end. Referendum nucleare. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Blu Radio Veneto, amici, con voi negli 88 e 700 MHz in modulazione di frequenza. Se volete ascoltarci anche in streaming, io vi ricordo sempre, basta cliccare su www.bluradioveneto.it e cliccate su quelle cuffie rosse lì, ci ascoltate in streaming in tutto il mondo, Alex. Fantastico. Tutta Italia e in tutto il mondo, visto che hai girato sì. buona parte. Non sei, nelle isole non sei arrivato ancora? Sono arrivato fino in Sud Italia. Facemmo dei concerti in Calabria. Però concerti nel, chiaramente non basker, concerti proprio concerti veri e propri? Sì, sì, sì, sì, sì, di musica, di pezzi nostri. Non, non cover per poi, vabbè, sì, l'Italia del Sud l'abbiamo fatta nell'isola, no, effettivamente in Sardegna e Sicilia, in Sicilia, no. Beh, non si sa mai. Può capitare. Infatti, perché no? Perché no? Certo, bisogna suonare dappertutto e si può arrivare anche là. Adesso nel librone che noi abbiamo, nel librone magico, nella scatola magica, Alex ha escogitato, ha tirato fuori Melissa di Amanda Brothers Band. Perché qualche critico ha scritto: eh sì, tu hai qualche riferimento di rock sudista. Ma ami anche rock sudista. Sì, americano questo. Tutto e anche rock sudista. Beh, certo, anche il meridione, ascolto tutto degli Stati Uniti d'America: Man Brothers, Black Rose, Lynyrd Skynyrd, quegli altri, God Mule. Screaming Cheetah Willis, ma al sud ci sono dei gruppi, c'è gente eccezionale, c'è stata e c'è. Gli Amon Brothers erano eccezionali. Sì, ma tutti, anche gli altri. Anche gli altri. Lynyrd Skynyrd erano magici. Sì. Black Rose. Sì, tutti, sfido Alabama, tutti ricordano quello, ma gli Lynyrd Skynyrd fanno tante altre cose, chiaramente. Sì, no. Però purtroppo sono stati molto sfortunati. Anche questi, anche gli altri. Anche Amon Brothers. Questo pezzo parla di Dwayne Allman, quando si è schiantato con la moto, certo. Perché parla dello zingaro che corre da Gypsy, se no lui sarebbe con la moto, corre da Melissa, che probabilmente non so, l'amante, sì, la fidanzata, sua ragazza, insomma, sua qualcosa. Ragazza. Melissa, allora, Alex Sniper Experience. Hit Peach. Sì, da quell'album famoso. Che bello, Peach, che è bellissimo. Sì. Crossroads seem to come and go. Yeah, yeah. The gypsy flies from coast to coast. Nowhere money, low and no one. Barren sorrow, barren fun. But back home, he always ran to his real Melissa. Oh, freight train, each car looks the same, all the same. No one knows the gypsy name. No one hears his lonely sigh. There are no blankets where he lies. In all his deepest dreams, the gypsy flies with well Melissa. Again the morning's come, again it's on the run. Something shining through his hair, a parent not a have a care. A pick up your gear and gypsy roll on, roll on. Crossroads, will you ever let him go long? Lord, will you hide a dead man's ghost? Or will he lie beneath the clay? Or will a spirit roll away? But I know that he won't stay without Melissa. Yes, I knew that he won't stay without Melissa. without Melissa. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, chi volevi dedicare questo pezzo? Beh, lo volevo dedicare a un gruppo che sta una ventina, quindi un po' più a nord degli A Number 2, che sono i Cheap Wine. Ah, Cheap Wine, sì. E poi una cosa seria, volevo dedicarla alle persone che hanno avuto problemi, che hanno magari avuto dei parenti che sono stati malati, hanno avuto delle malattie. E magari appunto, come dire, sono riusciti a, insomma, magari a venirne fuori, appunto. E niente. Questo, un critico ha scritto una cosa su questo disco, non vediamo se sei d'accordo. È un po' troppo esagerato forse, però adesso la frase è questa: prendete due chitarre acustiche, collegate agli amplificatori, perfetto, alzate il volume e riverbero al massimo e suonare a palla fino a farvi sanguinare le dita. Arrivi proprio a questo, Alex? Ma questi sono, erano i Sonic Youth forse. Sì, sì, non sei te. O forse non so, gli Slayer. Può darsi. No, ma non arrivi a sanguinare le dita. Beh, no. Appunto. Perché se no... No, sì, vabbè, i volumi sì, erano sostenuti, ma... Insomma, non a palla, è sempre proprio acustico. Sì, esattamente. No, mi piace questa idea della festa, del rock and roll, però a palla... Insomma, non è heavy metal, è sempre acustica. Sempre chitarra. Acustica. Acustica, certo, acustica molto riverberata, acustica un po' strana, però sempre acustica, eh. Sì, certo. Cioè, ma tutti gli aggeggi che... Stasera è solo una chitarra acustica. Di che tipo è di chitarra acustica? È una Ashton, fatta in Australia, con, come dire, un equalizzatore, ma, come dire, adesso non è amplificata, quindi stiamo suonando proprio live del live, stiamo facendo. Esattamente, proprio proprio scheletricamente parlando. E dal vivo con che aggeggi suoni? Con ma quale... A volte ho anche un attaccamine, uso anche la... Per gli ignoranti, cioè quelli che ignorano come me, che cos'è l'attaccamine? È una chitarra giapponese che ha un suono, secondo me, amplificato fantastico. Ah, okay. Nel senso, c'è proprio una stabilità di sound che è invidiabile a tutte le altre chitarre. Bene, e bene. Poi le Fender, i soliti tipi, quelli che hanno un po' tutti, ma non sono chitarre costose, eh. No, io non spendo, cioè questa chitarra l'ho pagata €180 per dirti. Ah, quindi ma le mie più, io sì, dopo più di 400-500. Questa è tra l'altro è la terza di questo modello, perché l'altra, la prima rossa, era proprio andata a livello l'avevi distrutta. No, non è gli armonici, il ponte inizia ad andare come dire, a non tenerlo più, cioè allora tu non è più precisa da quel punto di vista, e quindi dovresti ogni due secondi star lì ad accordarla. Cioè, la differenza tra le chitarre costose, queste qui, è quella. Certo, è certo. Che una Martin, prima che il ponte ti va, ci vuole tempo. O lo prendi a calci, come fa l'inizio. Rimane rifame fisicamente a posto. Sì, ma la Martin è la Martin, chiaramente. Benissimo, adesso sono le 23.09, caro Gil, siccome Alex, come si è detto, abbiamo detto all'inizio, ha un sacco di cose da farci sentire, cosa hai scelto adesso, Alex? Ho scelto The Next Song, sta tornando la voce, il disturbo da Minneapolis. Esattamente. È la voce di Bob Mould. The Next Song is called Standing in the Rain. Next, come fa lui io avevo il disco The Living End, si sente lui che si rivolge a Grant Arkic, credo che dopo gli fa next, quello che, vabbè, dagli il fiato, poveretto. Non aveva tempo di aspettare. Però, come si dice, se faccio Standing in the Rain, però... Sì, ma abbiamo detto di farla dopo quella, ti ricordo. Ah, allora io direi a questo punto, per non far arrabbiare... È tutto live, anche allora farei un pezzo di Grant Hart. Ecco, facciamo... Da Ecce Homo, che l'ha fatta anche in acustico, perché sennò... dopo, anziché tornare insieme, che magari ritirano a litigare, mi sentono e tutto il mondo si sta sentendo... E dico, quello fa più canzoni tue! E quindi... I Remember You... Questa è Back From Somewhere. Okay. Now you look like you just got back from somewhere. Somewhere, yeah, you know that it's true. Together we went nearly to nowhere. Nowhere really we're going to. Standing at the city center in the middle of the winter, I was waiting for you and to adore. When I got back, you said you were leaving. Leaving, you said I'd away. And coming back for the sake of retrieving things you've forgotten on that day. Still now my eyes are burning with the sight of your returning. Everywhere I look, I'm finding you. I remember you. I remember you. Still now my eyes are burning with the sight of your returning. Everywhere I look I'm finding you. Now you look like you just got back from somewhere. Somewhere, yeah, you know that it's true. Together we went nearly to nowhere. Nowhere really we're going to. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. 23 13 minuti primi, Blu Radio Veneto, ragazzi, in compagnia di Alex Snipper, la sua musica, con Maurizio Calzavara che conduce il programma, Gilles Facchinelli qui alla regia che dà un po' di mano anche al programma. Sì, no, certamente, conduce con me il programma. Alex, non abbiamo fatto torto a nessuno, né a Bob Mould, né a Graham Tartt, e pure ai fan del gruppo, chiaramente, che ce ne sono ancora tanti in giro. Sì, poi mi ricordo il concerto che ho visto di Mould, chitarra acustica e voce, a Milano. Quanto tempo fa, Alex? 2010, era quasi il 2010, dicembre. E la gente continuava a chiedere quando tornate insieme. Appunto. Quando tornate insieme, Bob, keep together with... Will Grant, a un certo punto lui stava da solo sistemando la chiesa, diceva do the same question at the Smiths, come di fate la stessa domanda agli Smiths, oh my god. Poi sono andato là e gli ho detto, guardi, io faccio il farmacista, are you a chemist, have you got something to me, I got a sore throat. Me lo ricordo come fosse un omone alto americano, barba lunga, gli occhi blu, molto alto. Cioè, ma quasi un giocatore cioè, che sembra di catch. Ah, no, di basket, di catch. Cioè, di football, scusa. Di football. Di cose... non gli ho detto, no, un po'... ma c'era cioè, quello che mi ha colpito che capiva bene. Ah, capiva bene l'italiano. Il mio inglese. Ah, è tuo inglese, scusa. Tu parli in inglese. Ricordo di avergli detto, I can give you anything, because my cioè, il mio negozio è chiuso praticamente, non posso darti niente. Ah, I know, it's after time you can sell anything. Cioè praticamente fuori orario di chiusura non puoi vendere niente, che in America, senza l'Italia, le farmacie fanno praticamente a orario tutta la notte, in qualsiasi momento puoi comprare. Ho capito. E quindi hai visto... Basta la fascia C. Tu hai visto il concerto allora, ma sei stato soddisfatto del concerto che ha fatto? Sì, sì, lui è una cosa... Era malato, era malato, bene. aveva proprio la febbre. La febbre. Però è un professionista, è venuto lo stesso. Intensissimo. Io ho visto solo Bruce Springsteen, sinceramente, chitarra e voce con una botta del genere, una carica così. L'hai visto acustico, Bruce? Sì, e elettrico. Dove l'hai visto? Era il tour di The Ghost of Tom Jones. Ah, però. Molto bello, molto bellissimo. Youngstown, pezzo eccezionale. Certo. Ma del boss non c'è niente in carniere, però, qua. Come? Del boss non c'è niente, però. Sì. Facciamo qualcosa del boss, visto che l'hai citato. Lo sai, caro mio, quando citi una cosa... Anche questo è la direzione. Non è la direzione, l'evoluzione della specie. No, sto scherzando. Chiaramente, del boss cosa vuoi fare? Beh, di Bruce Springsteen a questo punto io faccio qualcosa anche tenendo conto degli ascoltatori che magari questo pezzo di sicuro l'avranno sentito. Ha! In the day we swear, out on the streets of a runaway American dream. At night we ride through mansions of glory, suicide machines. Sprung from cages on Highway 9, crawl wheel through and jagged and stepped out over the line. Whoa, baby, the sun rips the bones from your back, it's a death trap. It's a suicide rap, we gotta get out, we're young. Cause tramps like us, baby, we were born to run. Yes, born to run. When they let me in, I wanna be your friend. I wanna guard your dreams and visions. Just wrap your legs round this double rims and strap your hands across my engines. Together we could break this strap, we round till we drop. Baby, we'll never go bad. Whoa, will you walk with me out on the wire? Cause baby, just a scary and lonely rider. But I gotta know how it feels. I want you to know me love is wild. Baby, I want you to know me love is real. Change the show. Hot tramp. Behind the palace, heavy power drums scream down the boulevard. Girls comb her hair in rearview mirrors, and the boys try to look so hard. The amusement park rises bold and stark as kids are out along the beach in a mist. Wanna die, we went beyond the streets tonight and I have a last than a kiss. Huh. Two, three, four, the highway's down with broken heroes on a last chance power drive. Everybody's out on the round tonight, but there's no place left to hide. Together one day we could live in the sadness. I love you with all the madness in my soul. Whoa, Sandy girl, I don't know when. We gotta get to that place where we really wanna go. And we walk in the sun, but till then tramps like us. Baby, we were born to run. Honey, tramps like us. Baby, we were born to run. Come on, Wendy, tramps like us. Baby, we were born to run. Yes, born to run. Restando in tema Vietnam. Vai, vai. Born down in a demon's town. First kick it took was when I hit the ground. Handled like a dog, but been bit too much. Did you spend half your life just covering up now? Born in the USA, I was born in the USA now. Born in the USA, I was born in the USA now. Got a little hometown jam, so I bought a rifle in my hand. Send me off to a foreign land to go and kill the yellow man. Born in the USA, I was born in the USA now. Born in the USA, I was born in the USA now. Come back home to the refinery. How the man said a son, it was up to me. Went down to see my VA man. He said, son, don't you understand now? Whoa, no. Whoa, no. I had a brother, I can't show him, fighting off the Viet Cong. They're still there, he's all gone. He had a woman in love inside gone. I got a picture of him now, hands down. Down in the shadow, penitentiary. How by the gas fires, a refinery. I'm 10 years burning down the road. Nowhere to run, ain't got nowhere to go. born in the USA. I was born in the USA now. Born in the USA. I'm alone, got a daddy in the USA now. Oh, now. Oh, now. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Due pezzi del boss. Il boss colpisce sempre, Alex. C'è poco da fare. Lui non voleva fare i pezzi del boss, ma li ho scovati. Abbiamo scovati. E poi lui è andato. E poi lui è andato. C'è poco da fare. Grandissima grinta. Grande grinta. Hai fatto un pezzo Born USA e Born to Run, ma forse Born USA un po' meno. Ma Born to Run l'hai fatto proprio rock and roll al 100%. Beh, ma è un pezzo rock. Io lo sento così quando anche finisce i concerti a Milano. Quante volte hai visto il boss? Quattro volte. Con la band e uno acustico da solo. E ho avuto la fortuna di vedere il mitico The Concert, quello del 2003 con la pioggia, che secondo molti era il migliore, è il concerto che ha fatto Bruce Springsteen, il concerto migliore che ha fatto in Italia. Ma lui ha detto proprio della sua carriera. Della sua carriera, non lo so, dopo, cioè nel senso, io ricordo che pioveva di rotto. E lui, cavolo, continuava a cantare con una grinta e una passione, cioè pur sotto la pioggia la gente ballava con lui. L'ha fatto anche a Firenze l'anno scorso, mi pare la stessa cosa. È andata una mia amica di Firenze quando sono andato a suonare, e nessuno si è mosso. Pioveva e nessuno si è mosso. Vedo che ha finito. Ah, ecco, mi hai fatto venire in mente una cosa. Dimmi. Il pezzo che vorrei proprio farlo, cioè ci ho pensato 2 secondi. È una cover che è inerente alla pioggia. Io ho visto gli Who, cioè quello che rimane degli Who, Roger Daltrey, è il mitico Mr. Pete Townshend. Non c'era più il bassista, era già morto? No, non c'era più, e non c'era nemmeno ovviamente. Keith Moon da tempo. Però c'era il batterista Starkey, il figlio di Ringo, Ringo. Che poi è andato con gli Oasis. Sì. E niente, ha piovuto a Verona, all'arena, a un certo punto ha avuto il colpo di freddo. Sì. Roger Gold. È uscito fuori. My voice is grown cold. Cioè, senza voce, colpito, purtroppo. Perché è proprio, è stato come premere un tasto E levare via la spina. Sparire la voce. Cioè, la voce. È stato. Io l'ho visto quando recentemente, l'anno scorso, sì, io e Alberto Prisco l'abbiamo visto, quando ha ripresentato Tommy, venuto qua in Italia, a Padova, ha fatto il concerto. È bravissimo sempre, il vocalist degli U, chiaramente. Allora, Roger Daltrey, bravissimo, nonostante che non abbia visto pitavo, l'opera, tu non hai visto? No, ho visto l'opera e qualche pezzo suo dai suoi dischi. Okay. E ho visto Tommy, sì, ha presentato tutto Tommy, poi ha fatto Pilbo Wizard e ha fatto soprattutto da Who Next Bob O'Reilly. Scegli tu Bob O'Reilly, Pinball Wizard, visto che ci siamo, o Won't Get Through Again, anche Pinball Wizard. Adesso facciamo una cosa di questo genere, ti facciamo riposare un secondo, okay. E sentiamo The Final. Dunque abbiamo The Final Cut, che non è il disco dei Pink Floyd, però è molto la voce, tu canti questo pezzo con inflessione jaggeriana, secondo me. Cosa dici? Perché facevo il tributo ai Rolling Stones. Vedi, te era rimasto. Forse era l'epoca in cui facevo il tributo ai Rolling. Può darsi. A me è venuto in mente questo. Ma sì, è perché l'ho fatto per 3 anni il tributo ai Rolling Stones. Faceva di tutto dei Rolling. Sì, da Tumbling Dice a... Sto preparando la bistecca. È quasi pronta. Adesso sentiamo il Final Cut e poi vedremo cosa sentiamo. On the wing are still flying now. We are all still flying home to here. The pigs on the wing are still flying now. Above the battered sea, Power Station. Pigs on the wing are still flying. And all you people are looking around. Pigs on the wing are still flying. But we don't care about the rain. The pigs on the wing are still flying. We are old. Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Amici, ancora 30 minuti circa in compagnia di Alex Nipper di Blue Radio Veneto. Caro Alex, ci siamo messi d'accordo, cari ascoltatori, con Alex e abbiamo deciso, cioè ho deciso che è meglio, sì, che è meglio di far ascoltare a Alex due pezzi degli U. Io ho visto Roger Daltrey, come ho detto con Alberto mesi fa, ho visto che riprendeva Tommy integralmente, poi faceva qualche pezzo degli U e faceva qualche pezzo dell'album suo solista. Come chitarrista aveva il figlio di Pete Townshend nella band. Sì, che io anche a Verona c'era suo figlio, faceva il chitarrista ritmico. Sì, faceva il chitarrista ritmico, una bella band aveva chiaramente a Padova, è venuto al Geox. Ha fatto un ottimo concerto, scatenato, poi quando ha cominciato a suonare Tommy e i pezzi più importanti di Tommy, soprattutto Bobby O'Reilly, si sono alzati tutti in piedi, me compreso. Caro Alex, stasera cosa ci fai sentire degli U allora? In sequenza? Ovviamente Pimbo Wizard da Tommy e Bobby O'Reilly da Who's Next. Che è il disco più bello secondo me che hanno fatto. Anche se però anche le opere rock non sono da meno, chiaramente. Però Who's Next rimarrà sempre nell'immaginifico, non soltanto nell'immaginifico, dei migliori album di sempre. Via con Pimbo Wizard. Pimbo Wizard. Since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho to Brighton, I must play them all. But ain't seen nothing like him in an amusement hall. But that diamond blanket sure plays a mean pound. Stands like a statue, because part of the machine. Feeling all the bumpers, always plain and clean. Placed by intuition, the digit counters fall. But that diamond blanket sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, it's got to be a twist. A pinball wizard, he's got such a support twist. How do you think he does it? I don't know what makes him so good. Ain't got no distractions, can't hear both buzzers and bells. Don't see lights a flashing, plays by senseless man. Always gets a replay, never tells at all. But that diamond blanket sure plays a pinball. I thought I was the valley table king, but I just hand my pinball crown to him. We'll be right back. even on my usual table, he can beat my best. His discipline left him, and he just does the rest. Got crazy flipper fingers, never see him fall. But that diamond blanket sure plays a million pound ball. The fields I fought for my meals. I get my back into my living. I don't need to fight to prove I'm right. I don't need to be forgiven. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sally, take my hand. We travel south across land. Hold up the fire, don't look past my shoulder. The exodus is here, the happy ones are near. Let's get together before we get my shoulder. Teenage wasteland, it's only teenage wasteland. Teenage wasteland, ooh yeah, teenage wasteland. They're all wasted. Bravissimo, bravissimo. Eccezionale. È difficilissimo suonare Bobby O'Reilly con una chitarra acustica e solamente e solo te. Bobby O'Reilly è un pezzo corale, bellissimo. Ci si prova. Sì, sì, sei stato bravissimo, un pezzo difficilissimo, però abbiamo omaggiato un gruppo straordinario, gli Who. E beh, ma vale la pena. Non omaggiare un gruppo così, cioè nel senso, hanno fatto, non dico la storia, hanno scritto quasi, la storia. Ha scritto la storia di tutto. Di molte cose, aveva un'energia, diceva ho letto di recente un critico si diceva di aver visto 3-4 gruppi messi assieme in America, gli altri tre erano normali. Ah no, ecco, a Woodstock quando si suonava, sì, erano importanti gli altri, ma quando arrivavano gli U era un'altra cosa, diceva, cioè era un altro firmamento, un altro modo di concepire le cose. E sì, gli accordi sono sempre gli stessi, chiaramente. Però l'energia, Tausen è un genio, assolutamente un geniale scrittore di musica. Però di Roger, tu fra poco vedrai un altro Roger, si chiama Roger Waters, però, visto che hai preso dal biglietto per vedere Roger Waters strappato, sì, The Wall. Perché? Cosa ne pensi di The Wall come disco dei Pink? Tu che sei un Pink verso il settore barrettiano più che... Ma io, come dire, mi piace il concetto che c'è dietro alla... penso che sia il punto di arrivo della produzione floydiana. Cioè si parte da The Piper di Gates of Dawn, dalla psichedelia che poi è la gioventù, che poi diventa il muro di incomunicabilità con gli altri. Esatto. Vedo proprio il traguardo, è forse il canto, è l'ultimo grande disco che hanno fatto. È bello anche The Final Cut, sì, che è il dopo The Wall. Sì. Potevano uscire un triplo, The Wall più The Final Cut messi insieme, sarebbe stato l'apoteosi floydiana. Sì, secondo me aveva già scritto i pezzi di The Final Cut, erano già messi da una parte e poi hanno tirato fuori al momento giusto. Gli ultimi e momentari lapse, ce li ho, ma più per cronaca. Sì, esattamente, come collezione, possiamo dire. Sì, cosa dicono, non dicono, piacevoli da sì, sentire. Sì, piacevole, esatto. Non sono più senza Roger Waters, e quello è importante, anche se... È bello per sé, sono dischi solisti di Gilmour. Esattamente, sono dischi solisti di Gilmour. Cioè, è bella la chitarra, le parti che ci sono bellissime, però... Però non c'è più il genio. No. Esattamente. Ok, abbiamo sentito questa performance, questo omaggio agli Who. Io vorrei fare riposare Alex, però fare riposare un musicista non va bene, allora facciamo suonare ancora. Ok. Gli hai dato l'illusione, esatto. È già pronto, appoggiato le cuffie. No, ma lui voleva fare una sei esigente cosa, questa sera. Voleva fare qualcosa di Red Hot Chili Pepper, vero? Sì, Alex? Perché per un mio amico che... Dopo lo facciamo riposare. Questo significa, Alex, comunque, che Maurizio veramente sta apprezzando alla grande la tua musica, così sicuramente come gli ascoltatori. Ma con Alex ci conosciamo da parecchio tempo e quando viene qua fa sempre qualcosa di diverso, qualcosa di positivo, qualcosa che attrae la gente come me, che ha una certa età, e non soltanto la gente che ha una certa età musicalmente parlando, anche i più giovani, perché gli Askardu è un gruppo che non è proprio il primissimo anni 60, anni 70, un po' più dopo. Sì, dopo. Sì, sì, no. Però... È importante. Anche un altro gruppo dopo è Red Hot Chili Pepper. E far qualcosa di nuovo per musicalmente parlando, cioè nel senso. Che cosa di Red Hot Chili Pepper fai? È My Friends. My Friends. Che album ti ricorda del calcio? Certo, One Hot Minute. Ah. Quello che c'è il chitarrista dei Jane's Addiction. Ah, ok. Vedi caso. 95. Vedi caso. lo voglio dedicare al mio amico Thomas Ferry. Perfetto. My friends are so depressed, I feel the question of your loneliness. Confide, cause I'll be on your side. You know I will, you know I will. Ex girlfriend call me up, alone and desperate on the prize and phone. They want to give us 7 years for being sad. I love all of you. Her pines are cold, so hard and lonely too. When you don't know yourself. My friends are so distressed, I'm standing on the brink of emptiness. No words I know to express this emptiness. I love all of you, hurt by the cold, so hard and lonely too. When you don't know yourself. tragedy really is peace. I heard a little girl, and what she said was something beautiful. To give your love no matter what, is what she said. I love all of you, hurt by the cold, so hard and long. When you don't know yourself, Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:42 minuti primi, ragazzi, riprendiamo la diretta, siamo con voi. Sì, sì, siamo, stavamo parlando io e Alex. Avevo visto. Sì, ma parlando in senso musicale del termine, sì. Chiaramente. Bella versione questa qua di Red Hot Chili Pepper. Poi nella scaletta, adesso abbiamo cambiato, sai, io cambio spesso volentieri, la scaletta del disco. A proposito, caro Alex, il disco, dove, se uno vuole il tuo disco, dove lo può trovare? Ma io lo faccio downloadare gratuitamente, è caricato interamente su YouTube, basta digitare Alex Nipes, Familiar to Someone, trova tutto il disco. Esattamente, se uno lo vuole fisicamente come fa? Me lo chiede. Te lo chiede. Cioè c'è Facebook, la pagina Facebook Alex Nipes Experience, o se no MySpace Alex Nipes. Te lo chiede e tu lo spedisci. Sì, dopo è anche in distribuzione. Non ti ricordo? No, quello no, perché hanno fatto poche copie, lo vendo io anche ai concerti. Ah, ho capito. Proprio i concerti, ti ricordi qualche data che hai, sì, tra poco? Dovrei suonare, allora il 25 suono di sicuro a Milano. Il 25 di maggio, chiaramente. Poi tornerò a Belluno. Non mi ricordo se è il 18, comunque dopo il 6 di giugno sono a Bergamo e ho un po' di date. Ma sono scritte nel tuo sito queste date, si trovano? Sì, sì, quando mi ricordo. Quando? No, le tengo io in agenda, però non le scrivo, quello è il problema. Comunque il 25 giugno e il 6 di luglio sono a Romano. Di Lombardia. No, il 25, sei a Milano il 25 giugno o 25 maggio? 25 giugno, 25 sono giugno. A Milano. Ok, e Milano dove? Non ti ricordi dove è a Milano? Vengo un locale. Sì. Ma sei a Milano, ecco, praticamente. Sì, comunque sono a Milano. Dopo suono a Romano, c'è praticamente una di Lombardia c'è una manifestazione che fanno, come dire, un festival. C'è un festival, chiaramente. E poi abbiamo altri impegni che comunque devo vedere. C'hai le tue date da fare. Situazioni. Più che altro non vorrei dirti la data sbagliata, il giorno sbagliato. Beh, 25 giugno sei a Milano in ogni quello caso. Quello lo so, perché era una cosa particolare. Sei riuscito a realizzare qualche video, Alex? Da trovare in YouTube? Sì, sì, ci sono i miei video chitarra e voce, ce ne sono un po'. Ci sono caricati 3 dischi. Questo qui, Familiar to Someone, un live appunto che dicevo fatto a Fontanella, cioè provincia di Cremona, così, e un live fatto a Milano, che sono diversi, hanno una scaletta diversa. In uno c'è dentro anche In the Flesh dei Pink Floyd. Ah, perfetto. Parlando di Pink Floyd. Poi dopo ci sono molte cover che ho registrato da Neil Young, i Beatles, ci sono io chitarra e voce che le registro, ma in presa diretta. Quindi ragazzi, se volete trovare qualcosa su YouTube di Alex Snipper, sicuramente ce ne sono una sessantina. Ah, però sì, qua abbiamo ho scelto Free Your Mind. Perché l'ho scelto? Perché c'è una citazione, lo sentiamo da disco, però questa qua è. Dal disco. Ah, ti fa riposare questa volta, sì, garantito. C'è una citazione harrisoniana, chiaramente. Perché? Harrison è un Beatle che a me piace, mi piace la mentalità, anche l'idea di un po' sarcastica col quale parlava dei Beatles. Sì, era un po' un Beatles che doveva essere, cioè che l'hanno messo da parte per un sacco di tempo, poi hanno visto che era bravo, allora hanno deciso no, facciamo scrivere qualche pezzo anche a lui. Sì, mi piace, ma mi piace anche Paul McCartney. Lennon alcune cose no. Non ti piace di Lennon? No, non è che non mi piace, certe cose non le condivido, nel senso... è contraddittorio Lennon, cioè ma dei momenti che sono contraddizioni, forse fra tutti è proprio quello più intrigante. Molti dicono che il suo fascino stava in quello, nella contraddizione. Poi perché Paul McCartney è il classico professionista, sì. E mi piace moltissimo, nel senso tu con Mecca vai sul sicuro, vai a vedere il suo spettacolo da professionista e l'ho visto, cioè nel senso... Hai visto a Bologna? Sei andato a vedere. Sì, e poi come dirò, ho diversi dischi suoi dal vivo, anche i suoi, cioè è proprio bravo, nel senso è un grande artista. George, mi piaceva lui come chitarrista, è un bel chitarrista secondo me, sottovalutato. Sì, esatto. Vabbè, Ringo era simpatico, Lennon mi piaceva come compositore, mi piacciono certe sue, ma certi momenti, certe sue cose, penso che vabbè, sono cose che sono raccontate, non l'ho mai conosciuto. Certamente. Però. Sentiamo allora Free Your Mind dall'album di Alex Snipers. In your mind. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:54 minuti, prima Maurizio, primi, ancora pochi minuti, quindi... Sì, abbiamo quasi finito praticamente, a proposito del critico che diceva a palla, e qua eri proprio a palla, chiaramente. Sì, qua sì. Eri proprio scatenato. Sì, sì, sì. Bene, stasera abbiamo ospitato Alex Sniper's Experience, l'album si chiamava Family to Someone Living in Action, quindi... Alex ha già detto come si può trovare, chiaramente i suoi concerti, e poi scrivendole, cercando nel suo, in Facebook, si trova tutto per poter acquisire questo disco live. Terminiamo in modo un po' particolare, Alex eseguirà tre pezzi live, uno dietro l'altro, con un piccolo intervallo per mettere a posto il librone. Partirà, tu hai detto che parti con un pezzo di Dinosaur Junior, perché te l'ho imposto chiaramente. Sì, sono io, l'ho detto prima, lo ripeto, sono in fabbrica, il primo maggio di Sandro, sono in una fabbrica di musica. Poi, sì, partirò con un pezzo di Giuseppe Maschisi, che sarebbe Joseph Maschis, Dinosaur Junior. Poi seguirà un pezzo degli Askardu. Degli Askardu, Standing in the Rain. Che dedicherai a... Ovviamente gli Number Two, che l'hanno coverizzato. E poi come ultimo un classico. Ed è stato coverizzato, mi sembra, anche dei Ritmo Tribale. Mi pare di sì, questo non lo ricordo però. Sì, dei Ritmo Tribale, perché fecero una tournée con loro negli anni quando ancora c'erano, negli anni 80, 87. E poi concludiamo con un classico. Ma io direi a questo punto, I Know I Have to Go, Father and Son. Certo. Ok, hai capito, caro G? Un'ottima prospettiva per il finale. Grandissima. Grazie ad Alex, che è venuto qua a trovarci stasera. Grazie a Gil in regia. Ricordiamo che domani c'è Agostino. Con Lucchini, mi pare. Un musicista, un cantautore. Buonanotte a tutti. Sentiamo di seguito tre pezzi di Alex Snipers dal vivo. Bye bye. Grazie a tutti da Blu Radio Veneto e da Alex Snipers. Grazie a tutti voi, grazie. Cannot make it here, I'm over it. I've been feeling weird, get over it. Cannot wind up free, I'm over it. Is there more to see, I'm over it. What the hell should I do? If I round around for you, you're not spoken to. Keep it calm and overdue. We still last so longer over it. Upon the later, I'll go over it. Can't escape the test, not over it. Waiting for you to ask, I'm over it. Whoa, it's you. I haven't figured out it's true. How to guard out when I'm through. It's not so easy to get through. I've been on the difference. Now it's making sense, I see. Sometimes I overthink. When I feel my heart sink, I need to believe. I got lost in thought, I'm over it. All almost lost, not over it. I got things to get over it. Hasn't happened yet, I'm over it. Now it's time to do. All the things you say are true. I get over around me too. When I needed you came through. Can I run right into you? Getting lost is nothing new. I need everything and soon. What could make me over to whom? Now I'm gonna go, but I shouldn't know it's you. Looking outside my window, and all I see is gray. I'm watching the clouds roll by every day. We make a reservation, you say you'll be on time. I say I might be a little late. Well, I pull it together and brush my teeth, comb my hair. I stop to think and I can see you there. I think of the times you waited just for me to care. I care about you. Checking the clock inside the room we call our home. I see that I'm late, I should get going. Off on a local transit, spending all my chance. And I can still hear the telephone. I wanna go back by my halfway to the place where we met. And I have it on my feet. Once I get there, I see everything's the same. Here comes the rain. You'll understand then. Ho ho ho ho ho ho. Ho ho ho ho ho ho ho. Ho ho ho ho ho. I should have guessed that you stand me up. Why did I even go now? And I guess it goes to show. There's no more wall put out, but it goes right down the drain. You let me, you let me, you let me, you let me. You let me standing in the rain. Ho ho ho. You left me standing in the rain, I know. You left me standing in the rain, ho ho ho. Why, oh, why do you make me go now, now, now, now, now, now? Now, now, now, now, now. Now, now, now, now, now. Oh, I know. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, it turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was holding it to listen. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. To sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cry, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If we're right, I'd agree. but it's them being on me. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go. I know I have to go.